Italians. Italienne. Italianas. Italienische. Italianes. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno. Buon pomeriggio. Buonasera. Pensavo ti fossi dimenticata, Laura, che abbiamo cambiato le parti. Sì, infatti non avevo assolutamente idea. Brava Laura, così mi piace. Brava, insomma, la vedo bella pimpante, attiva e fa bene, perché oggi andiamo in una località esotica. Non ci stanchiamo mai di viaggiare noi, eh? No. Dobbiamo ancora iniziare a viaggiare, ragazze. Eh sì, ma per davvero. Noi per esatto. ora stiamo facendo viaggi virtuali in giro per il mondo. Ma come? Questo era Parigi, io ero a Strasburgo. Dov'è che era Strasburgo? Scusami. A Strasburgo. Cosa diavolo stava facendo a Strasburgo? No, lo vuoi che sapere? Sta qua. Sei fantastica. Angela cosa ha detto della crisi economica? Cosa dice Angela? Angela. Cosa dice Angela? Sta bene. Che di quando è arrivata Laura tutto andrà per il meglio. Tutto andrà per il meglio. E noi oggi andremo sull'isola di Santa Lucia. Sì, un'isoletta remota. Vulcanica. Quanti abitanti? Tanti. E quanta è la densità abitante chilometro quadrato? No, giusto. Ma ce lo dirà la nostra ospite, che si chiama Nicole e abita ormai da 2 anni. In quest'isoletta. Io ci sono stata ai Caraibi, ovvio. No, da Santa Lucia. Ovvio. Mi autointroduco. Brava, no, fai no, bene. Ma io sono stata a Anguilla. Anguilla, un'isoletta che a quanto ho capito è a nord, perché sai, quando ci sei in un'isola che ti domandi dove sei, sei in un paradiso e basta. Mm-hmm. E ho dei ricordi meravigliosi di mangiate di pesce su queste spiagge bianche, stupende. Poi sai, io ero coccolata turista, quindi in un albergo meraviglioso. Ma scusa, parlaci un attimo di questa qua. Che anno era? Che avevo circa 17-18 anni. Quindi anche tu hai? No, sono andata con mio zio. Mi hanno proposto questo viaggio meraviglioso ed è stato effettivamente stupendo. Pensa che i miei zii mi proposero l'Appennino. Ma in giro, pensa che io non sono mai nata sotto Roma. Non conosco l'Italia. Pazzesco, dovremmo fare un weekend enogastronomico. Sono Napoli e dintorni, molto notevole. Ti ospiterò. Perché la nostra Laura possiede le fazende, sai, tipo la casa negli spiriti. Fazenda, mi sa padrone, di sardo, però. No, è sudamericana. Ecco, fazenda. Siete fantastiche, veramente. Fazenda. Che poi uno pensa che queste cose siano preparate, la cosa grave è che non è così, sono spontanee, cioè loro sono così a naturale. D'azienda, sapessi chi sono, zero, sì. Però so la fazenda. Sì, sabato, la luna dal monte. Montana. Piccola, andavo in Sardegna, avevo un sacco di amici sardi che cantavano questa canzone in sardo. Quindi abbiamo ricordato anche D'azienda nella nostra puntata. Passiamo a Santa Lucia, isola. Esatto, da un'isola all'altra, però i Caraibi, con un clima fantastico. Ce lo dirà la nostra Nicole. Ciao Nicole. Ciao a tutti. Ciao. Raccontaci un po' da dove vieni e soprattutto come mai sei finita nei Caraibi. Allora, io sono di Genova, appena ho finito la scuola è iniziata la mia vita con la valigia, diciamo. Prima ho fatto un'esperienza a Londra. Che scuola, scusa? Che... Ho fatto il liceo linguistico. Anch'io, Ale. Anch'io. Basta Maddalena, ma tu hai fatto tutto. Ma tutto. Hai fatto il liceo scientifico, l'artistico, basta. Molto linguistico, sperimentale. Anch'io sperimentale. Da Genova ti sei ritrovata negli Stati Uniti grazie alla conoscenza delle lingue. E negli Stati Uniti cosa facevi? Aspetta, prima Londra. Sì, prima Londra, scusa. Prima Londra ho fatto l'esperienza alla pari lì, e poi un'esperienza che doveva durare un anno è durata 4 anni. Ho fatto l'università e poi mi sono laureata lì, e questo riassumendo tutto molto. Nel frattempo poi ho fatto un po' di periodi Londra-Genova, poi finita l'università, visto che ho iniziato a studiare anche lo spagnolo, ho fatto un periodo in Sud America. In Sud America dove? Paraguay. Come si vive? Bene? Si vive bene. Insegnavo italiano ad un gruppo di ragazze che volevano fare le infermiere in Italia. È un posto abbastanza povero, non è sul mare, quindi non è un grande posto turistico. Però gente stupenda, no. Ci tornerei. E poi vabbè, ho viaggiato un po', Argentina, Brasile, le solite cose. Vabbè, le solite cose. Le solite mie cose, ragazzi. Sì, esatto. Sono tornata in Italia, perché avevo la possibilità di lavorare in Italia. Ho detto, va bene, adesso lavoro, cerco casa, mi fermo qua. mi sposo, faccio figli. Esatto. Sì. No, non mi sposo, faccio figli, rimango. Faccio figli, poi, mi sposo. E poi trovi il marito e te ne vai. Esatto. Infatti ho trovato marito che abitava negli Stati Uniti. Proprio lì dietro l'angolo, no? Io ho la valigia pronta, andiamo. La valigia pronta, però io amo molto Sud America e i Caraibi, invece gli Stati Uniti non ho questo grande amore. Quindi vabbè, ho fatto un periodo di 3 mesi, poi altri 3 mesi, poi altri 3 mesi, perché non ottenevo mai il visto a Washington DC, dove lavorava mio marito. Dopodiché ho detto, adesso basta, ci spostiamo a Londra. Cosa faceva tuo marito? Lui faceva il commercialista per una super compagnia multinazionale americana, aveva un super lavoro. Poi arriveremo a capire perché siete veniti in un'isola remota. Piano piano, il percorso, adesso stiamo tornando a Londra. Perché mi sta venendo? Perché a me la vita semplice non è mai piaciuta. Esatto, no, ci vorrebbe uno schemino, aspetta, adesso Maddalena scrive. Faccio appunti. No, però io volevo soffermare su una cosa. Sì. Che hai detto? Io ho detto andiamo a Londra. Sono riuscita a convincerlo e siamo andati a Londra. Come hai fatto a convincerlo? Raccontaci un po' questi segreti. Sì, qualche tecnica così da usare anche privatamente fra di noi, con i nostri rispettivi compagni. No, ho detto io negli Stati Uniti non me la sento, proviamo Londra che è questo paradiso. E invece purtroppo gli anni in cui ci siamo trasferiti a Londra, che adesso siamo arrivati al 2010 più o meno, sì, 2010, sono stati gli anni un po' difficili, nel senso che l'economia anche a Londra è iniziata ad andare maluccio, per cui lui non ha ottenuto il trasferimento e quindi è venuto con un visto da studente facendo un master. Io lavoravo, facevo la traduttrice quando riuscivo, la nanny, di tutto un po'. Abbiamo avuto un bimbo. È nato dove? È nato a Londra, sì. Okay. È nato a Londra, il che ha complicato un po' il tutto. Alla fine abbiamo deciso di lasciare Londra, quindi le opzioni erano l'Italia o gli Stati Uniti o i Caraibi, perché lui comunque è originario di qui, nel senso ha vissuto qui, poi a 18 anni è andato a abitare in America. Questa ci mancava, aspetta. Ok, quindi aspetta, no, questo è un dettaglio importante, quindi lui è proprio di Santa Lucia? Sì, dove... Santa Lucia, sì, sì, lui è nato qua, è cresciuto qua e poi a 18 anni è andato in America a studiare, poi si è fermato lì a lavorare per 10 anni. Abbiamo deciso i Caraibi perché l'America, a me non piace molto vivere negli Stati Uniti, vabbè, poi lì c'è un discorsone ancora non iniziamo, comunque come famiglia mista l'abbiamo colto. Non è il posto migliore per vivere come famiglia mista, secondo perché me. Perché come famiglia mista negli Stati Uniti non siete riusciti a vivere, o comunque secondo te non è l'ideale vivere? Sì, la mia esperienza di Stati Uniti è principalmente Washington DC, che comunque è una città grande, è una città abbastanza multiculturale, direi. Sì, poi si trova a nord, dove la mentalità è un po' più aperta. Sì, no? Sì, per quello sicuramente. Però al contrario di Londra, in cui c'è una mistura di tutto, lì ho notato una grande divisione principalmente. Dal punto di vista lavorativo non importa se sei bianco, nero, giallo, verde, se hai capelli lunghi, corti, tatuaggi, piercing, non importa, puoi far carriera come, dove, quando vuoi. Però poi nella vita quotidiana di tutti i giorni c'è molta divisione, cioè i bianchi stanno di qua, i neri stanno di là, non c'è tanta mistura. Il che a me, ovviamente, essendo una famiglia mista, non è che mi ispiri più di tanto. Mio figlio, essendo misto, avrebbe un po' di problemi a inserirsi. Invece nei Caraibi mi dicevi che tu hai trovato un clima più aperto. Invece nei Caraibi sì, nel senso, Saint Lucia è un'isola appunto molto piccola, poco conosciuta, nel senso che non c'è tantissimo turismo, è principalmente turismo per le lune di miele, i matrimoni sulla spiaggia, queste cose qua, principalmente di inglesi e americani, e la gente è molto tranquilla, molto genuina, molto semplice. Mio figlio va a un asilo internazionale, per cui ci sono anche europei, anche americani, anche persone che vengono da altre isole caraibiche, eccetera. Come mai c'è una comunità così internazionale a Saint Lucia? Ci sono varie compagnie per cui vengono a lavorare persone dagli Stati Uniti o piuttosto che dall'Inghilterra, quindi il turismo è la cosa principale, quindi hotel, cose varie. È un'isola che è stata colonizzata un po' dalla Francia e un po' dall'Inghilterra durante gli anni. Quindi la cultura locale è un mix fra... Esatto, vabbè, la lingua è l'inglese, la lingua ufficiale. E poi c'è il patois, che è, diciamo, il dialetto locale. Il creolo. Sì, che è un misto tra inglese e francese. L'effetto isola, che effetto ti fa? Perché di solito solito tutte le persone che abbiamo anche intervistato, poi anche nella vita, lo so, chi va a vivere in un'isola sente delle difficoltà. Io adoro il mare, per me quando c'è il mare c'è tutto. Però la difficoltà è, venendo da Londra, appunto, sì, da dei grandi metropoli, ritrovarsi comunque in un posto che, per quanto sia interessante, è sempre limitato. E poi è piccolo, ti dico, cioè ci sono due città piccolissime ed è tutto lì, e quindi dopo un po' ti senti un po' soffocata, e poi sei lontanissima dall'Italia, non è che dici vabbè dai, mi faccio una settimana in Italia, perché a parte il costo dei voli, che è sempre altissimo, sono due anni che non vengo in Italia. E stai sempre sull'isola oppure, che ne so, vai in Stati Uniti? Per adesso solo in altre isole, poi sì, questi anni ce li siamo presi un po' di risparmio, per cui non abbiamo viaggiato, e speriamo quest'estate di riuscire a venire un po' in Europa. Di altri italiani sull'isola che vivono proprio? Ce ne sono pochissime, ne conosco due principalmente, ci vediamo, i bimbi giocano insieme, questo sì, sono le uniche due, sì. Poi vabbè, ce ne sono altre che però sono molto grandi, che non frequento, diciamo. Vi farete qualche spaghettata, no? Le mie amiche ci sono, una di Milano e una di Roma. Vedi, se avessi scelto una di Trieste potevi fare come noi. Tuo marito lavora, sì. E tu che cosa stai facendo? Allora, io vabbè, faccio la super mammissima, e poi io faccio la traduttrice quando c'è lavoro, e l'interprete quando ci sono i pochi turisti italiani che vengono, io li accolgo negli hotel. E pochi? Pochi turisti italiani? Sì, ce ne sono pochissimi. Ogni tanto arriva la nave strapiena di italiani che invadono le spiagge, che sono magari pensionati così di una certa età, che hanno la crocetta. Partono da qua, quindi li vedo tutti. No, qualche coppia che viene a sposarsi, oppure che fa la luna di miele qua. Cosa c'è di interessante? Un'isola vulcanica, sì. Bel mare, belle spiagge. Sì. È una sicuramente delle più belle dei Caraibi, perché è molto incontaminata, ci sono le foreste tropicali bellissime, fiumi, spiagge. E ti proietti nel futuro in quest'isola o? Questa è una domandona, non lo so, per adesso stiamo qui, poi se si presentano altre opzioni le valuteremo, nel senso che io non mi vedo tutta la vita da nessuna parte, quindi per... Tuo marito è contento di stare lì adesso? Lui sì, più contento che a Londra sicuramente, però appunto se ci saranno altre opzioni vedremo di sfruttarle, diciamo. Per adesso per il papino sicuramente qua è il paradiso, sono contentissima per lui, va bene così. Poi ma sì, che sta scalzo tutto il giorno. Sì, immagino. Però mi chiedo anche per gli studi, ora ha 4 anni, un giorno che voglio dire voglio studiare andrà via. Sì, qui ci sono un po' di università adesso, però vedremo. Insomma, hai già pensato quale potrebbe essere il tuo prossimo paese, la tua prossima tappa? Se c'è l'opzione Londra io la prendo sempre, anche se adesso non so se riuscirei a vivere con quel clima, mi ci vorrebbe un po' riabituare. Genova? Genova no, per quanto io l'adori, le opportunità lavorative per mio marito non penso che ce ne sia. Bisognerebbe fare 6 mesi a Londra e 6 mesi a Santa Lucia, fantastico. Sempre, anche 3 mesi a Londra, 2 a Genova e il resto a Santa Lucia, sì, sarebbe perfetto. La cosa che mi manca di più, la focaccia. E la mamma? La mamma sì, la mamma tanto, soprattutto da quando sono mamma io, non è semplice. Più la mamma o la focaccia? La mamma, diciamo che io ci sono abituata a abitare lontano da tanti anni, però il cibo in generale manca tanto, la mamma poi si può sentire su Skype, eccetera, la focaccia. Ma lei è venuta? Lei è venuta? I miei da non te, sono ancora venuti. È venuta mia sorella col suo bimbo, però i miei non ancora. Spero di insomma, speriamo. Senti, quello di cui vorrei parlare è il clima. Subite dei tifoni o piogge? È un paradiso anche nel clima, perché è protetto molto da vari uragani, eccetera. Quelli ci sono più nel nord. Prendiamo l'ultima parte dell'uragano quando arriva, che magari è vento forte, piogge forte, però niente di che. Ce ne sono stati alcuni negli anni passati, io non abitavo ancora qui, ce ne sono stati 2 mi sembra forti che hanno fatto abbastanza danni, però sono molto rari qui, il clima è molto umido, e la cosa più negativa, forse l'unica veramente negativa, sono le zanzare. Lo stava per dire Maddalena. Sì, guarda, proprio dove sì, non quelle che abbiamo noi. No, qua le zanzare trasmettono dengue e una cosa nuova che si chiama chikungunya. È sempre, ci sono varie ipotesi, però sembra che gli scienziati abbiano cercato un modo per eliminare la dengue, e tra i vari esperimenti abbiano creato in laboratorio questo chikungunya, che è simile alla dengue, però non è mortale. Sti esserini che odio, guarda, io le odio le zanzare. Venezia era proprio la nostra guerra, le zanzare. Poi vabbè, all'inizio avevo buboni ovunque, adesso mi sono abituata abbastanza, però ci sono sempre. Nicole, io ti ringrazio per essere stata con noi, di averci raccontato questa bellissima esperienza. Grazie a voi. Grazie ancora. Grazie. Ciao Nicole. Ciao. Che bella immagine, quest'isola meravigliosa. Sì, però le zanzare, Maddalena. Questa istantanea di oggi, queste zanzare le toglierei. Farei un Photoshop e le cancelliamo. Però vedi, la zanzara, nonostante sia la prima causa di morte a livello mondiale, se non ci fosse, l'ecosistema si destabilizzerebbe completamente. Sì. Quindi vedi, anche queste minuscole creature sono utili e funzionali al sistema. E tutte noi siamo funzionali al sistema, anche voi che ci ascoltate non sapete ancora di esserlo. Infatti ci potete contattare e partecipare a Italiane con la valigia. Voi dove abitate? Dove siete? Dove andrete? Come siamo filosofiche. E noi vogliamo saperlo, vogliamo sentire la vostra opinione. Come dice Laura, scriveteci, contattateci. Abbiamo una pagina Facebook, Italiane con la valigia, ma soprattutto abbiamo un sito. Chi ce lo dice? Io. Vai. Spingono. Metà. www.italianeconlavaligia. Punto. E punto se due, va. Guarda che ci licenzia, ci liberiamo la lettera di dimissioni domani, siete dimissioni. No, al posto potrei mettere due voci elettroniche. No, ma abbiamo una foto, dai, ormai sul sito c'è la foto, se no i nostri finanziatori ci tagliano la testa. Sì, non possiamo sbilanciarci, e quindi siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio questa settimana, ma torniamo. Torneremo presto, puntuali come sempre, la prossima settimana. Non tanto, perché abbiamo cambiato giorno, come avete visto. Sì, c'è stato un decalaggio. Quindi la prossima settimana, nuova Italiana con la valigia, nuovo paese, surprise. Non ci resta che augurarvi buongiorno. Buon pomeriggio, buonanotte. Oh, cattiva, ti ho rubato la vedetta e tu non dici nulla. No, io posso dire qualcosa di filosofico? Orbai.